Ragazze carissime, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Un caro saluto da Don Leonardo Maria Pompei per questa nuova puntata di Spazio Giovane, la nostra trasmissione dedicata alla catechesi giovanile, come tutti sapete. Stiamo ormai, penso sappiate, occupandoci del ciclo dei 10 comandamenti. Stiamo analizzando, diciamo così, e le fattispecie inerenti al quinto comandamento, siamo partiti la settimana scorsa da quelli che sono temi un pochino di stretta attualità e che coinvolgono quella particolare, diciamo, branca disciplina della morale cattolica che oggi è nota con il termine di bioetica. E in particolare la volta scorsa abbiamo fatto riferimento, se ricordate, all'abominevole delitto dell'aborto. E poi alla eutanasia, distinguendo peraltro l'eutanasia da ciò che eutanasia non è, ma che in realtà è quello che si chiama accanimento terapeutico, che in quel caso chiaramente sospendere una forma di terapia estrema che vada al di là di tante fattispecie difficili. Non significa ovviamente andare incontro alla traduzione della legge di Dio, ma semplicemente lasciare che la natura faccia il proprio corso. Ora dobbiamo andare avanti ed occuparci sempre ancora di qualcuno dei temi di questa materia, quindi cosiddetti temi bioetici, prima di passare al resto del quinto comandamento e agli altri gravi peccati che si possano commettere contro questo precetto, e sperando così, chi lo sa, forse con questa e la prossima conversazione, al massimo altre due, ma forse anche già con la prossima, di poter terminare questo capitolo e poi passare al sesto. Allora, abbiamo oggi, diciamo, tre cose molto gravi, una delle quali, la mia esperienza mi insegna, diciamo così, ignorata anche da larga parte dei fedeli cattolici, in particolare delle donne. Un'altra, non sufficientemente compresa e valorizzata, lo stesso anche in ambito cattolico, anche perché ci sono stati alcuni equivoci che si sono ingenerati a livello legislativo con una campagna, insomma, che vide impegnata anche la Chiesa Cattolica, sto mi sto riferendo alla legge 40, ma che bisogna ben intendere per comprendere ciò che la Chiesa desiderava, insomma, difendere allorché si schierò, vi ricordate, a proposito del referendum abrogativo su questa materia. E poi c'è un'altra cosa, diciamo, assai grave contro la vita, che riguarda sempre temi di natura bioetica, e che è, diciamo, conosciuta come la manipolazione genetica, ovvero tutta quanta quella serie di studi e di esperimenti praticati su embrioni umani, addirittura creati ad hoc in laboratorio per questo fine. Ecco, vedremo che sono tutte quante fattispecie assolutamente incompatibili con la morale cattolica, che affonda, lo si ribadisca, in questa materia la propria forza vincolante nella legge naturale. Tenete presente che molti dei 10 comandamenti si appoggiano sulla cosiddetta legge naturale, cioè cosa vuol dire la legge naturale? La legge naturale è semplicemente ciò che un uomo è in grado di comprendere guardando semplicemente la natura delle cose così come le troviamo nel mondo. Ecco, la Chiesa ha sempre difeso la legge naturale, definendola come la prima, diciamo così, forma di manifestazione della volontà imperativa di Dio, dinanzi alla quale bisogna sempre fare un passo indietro, ecco, e non passi avanti, nel senso che se la realtà e la natura delle cose dice e viaggia in un certo modo, certamente noi possiamo correggerne i difetti, possiamo elevarla e trasformarla, ma non agire contro di essa. Perché questo veramente lo dicevano anche alcuni filosofi del tutto al di là di ogni sospetto, in quanto al laicismo, e anzi è vero e proprio paganesimo, quando ci si rivolta contro la natura bisogna aspettarsi che presto o tardi la natura reagisca con una rivoluzione uguale e contraria. Allora, vediamo adesso di focalizzare queste tre fattispecie, cominciando dall'amniocentesi. L'amniocentesi, che praticano purtroppo molte donne, e anche su consiglio, raccomandazioni assai, diciamo così, fervide di non troppo, insomma, raccomandabili ginecologi, è una particolare procedura che consente di fare una diagnosi prenatale circa lo stato di salute di un feto. Ora, per quanto riguarda la diagnosi prenatale, non ci sono problemi, diciamo così, di pregiudiziali a priori da parte della morale della Chiesa, nel senso che usando non l'amniocentesi, adesso vedremo subito perché, ma le altre modalità con cui anche si monitora lo stato di una gravidanza, è possibile senza dubbio utilizzare e ricorrere alla diagnosi prenatale, purché non lo si faccia a scopo abortivo. Quindi, perché su questa materia non conta soltanto l'azione, ma contano anche le intenzioni. Ora, si sa dalla scienza che se uno vede in tempo alcuni problemi del feto, alcune terapie possono essere, diciamo, poste in essere già durante la gravidanza, almeno a quello che dicono i medici, o comunque, si può approntare una terapia di intervento immediata, cioè se è necessario fare subito un'operazione al feto oppure una terapia immediata appena e subito dopo il parto. Quindi su tutto quanto questo ovviamente nulla quaestio, ecco perché in questo caso c'è un pieno rispetto della finalità propria della medicina, che è appunto custodire e dare la vita, non la morte, e non c'è nessuna forma né di pericolo né di rischio per il feto o l'embrione, a seconda dei casi. Ora, invece, l'amniocentesi presenta due punti moralmente inaccettabili. Numero uno è che si tratta di un intervento invasivo, cioè l'amniocentesi è pericolosa per la vita del feto, cioè la mette a repentaglio. Quindi è il classico caso in cui si tratta di un mezzo assolutamente sproporzionato in relazione al fine. E in quanto tale non può assolutamente, ripeto assolutamente, per nessun motivo essere utilizzato. Perché la vita del feto è sacra, va tutelata e non va messa a repentaglio. Secondo, il motivo per cui viene praticata quasi sempre è quella, ed è questo il motivo per cui la consigliano i ginecologi, perché è anche quella che consente, per la verità, di vedere meglio di tutte rispetto alle altre tecniche, almeno a quanto dicono. Ma il motivo per cui viene praticata è quello del ricorso ad un eventuale aborto cosiddetto terapeutico, che poi non si sa cosa significa, o addirittura meglio sarebbe dire eugenetico, ovvero l'eliminazione di un feto che fosse affetto da malformazioni o da malattie non curabili. Ora, qui bisogna fare attenzione a una cosa, anche se sicuramente qualcuno quando sente queste cose sobbalza dalla sedia su cui è seduto. Ecco, voi sapete chi è stato il più grande, come dire, fautore e attuatore del cosiddetto aborto eugenetico negli ultimi tempi della tormentata storia dell'umanità? Ecco, è stato un certo signore che si chiamava Adolf Hitler, insieme ai suoi, come dire, satanici e diabolici medici collaboratori. Voi sapete che lui aveva il mito della razza, che tutti i tedeschi dovevano essere belli, alti e con gli occhi azzurri, salvo chiaramente che lui faceva eccezione, insomma, perché non era tanto alto, non era tanto bello e non aveva gli occhi azzurri, però capite, qui i grandi megalomani sono sempre, dicevano una volta, i classici. Il Rex solutus legibus, cioè sciolto dalle rapine leggi, valgono per gli altri, non per il diretto interessato. E sono stati fatti gli aborti eugenetici, e neanche poco, insomma, da parte dei nazionalsocialisti. Quindi entrare dentro questa logica vuol dire entrare in una logica satanica che ha caratterizzato uno dei più, diciamo così, gravi regimi mai esistito nel corso della storia. Ora, giustamente tutti si stracciano le vesti, per carità di Dio, guai a non farlo, no? Dinanzi ai crimini nazisti. Ecco. Però bisogna ricordare che tra i crimini nazisti non c'è stato solo lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento, cosa assolutamente disdicevole e che non è una pagina di storia che non sarebbe mai dovuta essere scritta. Questo è ovvio, d'accordo? Però c'è stato anche questo. C'è stato anche questo, quindi il mito della razza pura passava anche attraverso questa forma particolare. Quindi che i tedeschi devono essere tutti quanti alti, belli, biondi e in buona salute. Quindi chi non è alto, bello e biondo e in buona salute non serve all'umana società, quindi lo eliminiamo. La logica che sottostà a questa forma di aborto è la stessa. Cioè, tu chi sei, caro uomo, per decidere chi è degno di venire al mondo e chi non è degno di venire al mondo? E tu sei in grado di giudicare che una persona che abbia una malformazione in questa vita non sia degna di venire al mondo? Punto interrogativo. Certamente noi possiamo e dobbiamo fare di tutto per fare in modo che la vita di ogni essere umano sia sana e condotta, diciamo così, in stato di buona salute, certamente, ma non giudicare che non è il che è meglio la non vita, quindi la morte, piuttosto che una vita vissuta in situazioni di non del tutto normalità. Quindi bisogna ricorrere agli altri sistemi perfettamente leciti, diciamo, il più famoso dei quali è l'ecografia, per monitorare lo stato di salute di un feto e per disporre eventuali rimedi e accorgimenti in presenza di problemi suscettibili di qualche positiva soluzione, ecco, preventiva o terapeutica dopo il parto. Ora, un'altra cosa molto grave è la cosiddetta fecondazione artificiale, che bisogna trattare nel quinto comandamento, non nel sesto. Lo vedremo che poi questo tema ritornerà anche nel sesto comandamento. Però c'è una grande differenza tra la fecondazione artificiale, che è molto grave, e l'inseminazione, che come vedremo a suo tempo durante l'excursus sul sesto comandamento, è comunque moralmente illecita. Ora, mentre l'inseminazione presenta una motivazione di liceità soltanto in quanto rappresenta una modalità di concepimento della vita forzata, quindi diversa da quella voluta dal Padre Eterno nell'attuale economia che ci è dato di conoscere, che è quella dell'umanità decaduta dopo il peccato originale. Cioè un figlio nasce da un rapporto coniugale, sessuale e sessuato tra un uomo e una donna. Basta. I figli vengono al mondo così. Questo è vero in tutto il mondo dei mammiferi. In questo non siamo in nulla differenti dalla maggior parte di essi. Ecco, quindi la legge naturale dice questo. Ecco, forzare la legge naturale è sempre un male, ma nella fecondazione artificiale questa forzatura, oltre ad essere macroscopica, nel senso che non c'è nemmeno, come dire, un concepimento forzato, ma comunque avvenente in contesto, come dire, uterino, diciamo, come nell'inseminazione, ma questo è una riproduzione della vita in provetta, tant'è vero che la fecondazione artificiale si chiama anche con una sigla FIVET, ovvero fecondazione in vitro. Quindi si tratta semplicemente di, alla luce delle conoscenze che abbiamo, di acquisire le cellule finalizzate alla riproduzione, ovvero i cromosomi, ovvero i gameti maschili e femminili, e creare l'incontro tra spermatozoo e ovulo artificialmente, cioè in provetta, e poi in un secondo momento avvenuto insomma questo incontro, l'impianto, ecco, di queste cellule fecondate in un certo numero, tra l'altro, nel grembo della madre. Fecondazione che penso che sappiate tutti quanti, facciamo subito un po' di distinzione di linguaggio, che può essere omologa, così si chiama, quando è perpetrata, diciamo, messa in atto all'interno della coppia, cioè marito e moglie non possono avere figli, si fanno estrarre seme maschile e uovo femminile, lo consegnano ai tecnici, i tecnici infanno una fecondazione artificiale, dopodiché impiantano numerosi ovuli fecondati nel grembo della mamma. Quindi comunque sia il patrimonio genetico di questo nascituro sarà almeno quello salvo, cioè perché sarà figlio di quel padre e di quella madre, da un punto di vista biologico però. Ecco. Invece la fecondazione è eterologa, quando uno dei due, o addirittura tutti e due i donatori, sono completamente estranei alla coppia. Quindi supponiamo che, e questo chiaramente, come voi ben sapete, apre lo scabrosissimo capitolo, della possibilità per le coppie dello stesso sesso di avere un figlio proprio, cosa che è già successa. Perché Elton John con il suo compagno, primo matrimonio celebrato in Inghilterra, hanno un figlio proprio e l'hanno fatto attraverso questo sistema. Cioè, uno dei due si è fatto estrarre il seme, una donna come dire, ha messo a disposizione l'ovulo e i cosiddetti uteri in affitto e una persona. E ha portato avanti la gravidanza per questa coppia, consegnando poi dopo il parto il bambino al doppio papà. Questo è quello che accade. Quindi capite come attraverso questa tecnica, ecco, si è realizzata, a mio avviso, molto furbescamente, con un'azione concepita nei piani bassi, ecco, dei vari regni che esistono nell'universo, finalizzata ad ottenere questo risultato. Lascio ovviamente al cuore degli ascoltatori qualificare come buono o come cattivo. Quindi questo è il fenomeno. Ora, non tutti sanno che la fecondazione artificiale porta con sé un omicidio obbligato, anzi un pluriomicidio obbligato. Perché questo processo abbia speranze di successo, ordinariamente nell'utero della donna devono essere impiantati più di un embrione. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perché alcuni di loro sicuramente faranno una brutta fine. Nella speranza che almeno uno, ecco, di questi nuovi impianti attecchisca, riesca a sopravvivere e quindi attivi il processo di gravidanza nel grembo della donna. Allora, voi capite subito che questo significa che intenzionalmente, quindi con previsione, come dire, ante factum, tu accetti che pur di soddisfare la brama che c'hai di avere un figlio, tra virgolette, tuo, altri saranno sacrificati su questo altare. Quindi voi capite che ogni volta che una donna fa una fecondazione artificiale si rende responsabile della morte di più di qualche feto. Ora, che è successo in Italia con questa legge 40? La legge 40 non è moralmente accettabile da parte della Chiesa Cattolica. Ecco. E così riprendiamo anche a questo proposito un discorso che tra l'altro mi ha visto anche impegnato anche su fronti multimediali durante, per esempio, anche la recente campagna elettorale per quanto riguardava l'orientamento del voto, perché sulla legge 40 interviene un principio sancito dal beato Giovanni Paolo II, ecco, e perfettamente coerente con la morale cattolica, che suona in questo modo. Quando ci sono delle circostanze esterne che rendono umanamente impossibile o moralmente impossibile la possibilità di raggiungere il bene morale così come voluto dalla legge di Dio, e non esiste altra possibilità e altra strada percorribile, è lecito appoggiare quelle forme che quantomeno tendano a ridurre il più possibile i mali che vengono posti in essere. Attenzione, non si tratta di una volontà positiva, si tratta di un atto, come dire, di tolleranza che, adesso vi faccio subito l'esempio di Giovanni Paolo II, in alcuni casi può anche comportare un appoggio positivo, ma non si tratta di appoggiare positivamente, come dire, il male che c'è, si tratta di ridurne le sfere di azione. Cercate di capire bene, eventualmente fate qualche telefonata o fate qualche mail prima di mettere in giro queste cose qui. Allora, l'esempio che fa Giovanni Paolo II nel suo magistero è il seguente. Supponiamo, adesso lo sapete che in Italia, per quanto riguarda l'aborto, c'è la sciagurata legge 194, d'accordo? Che prevede la possibilità di abortire entro i primi 3 mesi per motivazioni assolutamente insindacabili, che basta, e ad arbitrio della donna. Punto e basta, in sintesi. Il marito, poveraccio, non ci può fare niente, non ci può fare. L'unico vincolo è che una donna minorenne deve andare a partorire, chiaramente col consenso dei genitori, a spese del Servizio Sanitario Nazionale. D'accordo? Ora, voi sapete che le rarissime volte, quasi nulle, in cui, a proposito, va bene, poi vi rinviterò la settimana prossima, il 12 maggio a Roma ci sarà la Marcia per la Vita, a cui, forse l'ho detto anche martedì scorso, non ricordo, siamo tutti rigorosamente invitati. Allora, supponiamo che allora, pochissimi fino ad oggi si sono levati ad alzare la voce contro l'aborto. Pensate a quel poraccio di Giuliano Ferrara, che ci fondò anche un partito, che prese lo 0,2, una cosa del genere per cento, quindi non se l'è filato nessuno. Una volta che io ricordo qualche anno fa, non mi ricordo quale esponente, forse Buttiglione, non mi ricordo il nome, provò a dire come dire, a mezza bocca, sarebbe il caso di riconsiderare la legge 40, successe il finimondo. Finimondo, ahimè, trasversale, da destra a sinistra. Cosa abbastanza strana, però così fu, io ricordo bene l'episodio, 5-6 anni fa, perché questo rappresenta uno di quei totem sacri e assolutamente intangibili di grandi conquiste, per quanto riguarda i diritti dell'età contemporanea. Questo è quello. Quindi guai se qualcuno osa dire mezza cosa. D'accordo? E invece bisogna dirla, perché noi senza nessuna paura, e anche i politici cattolici devono dirlo, che all'aborto si dice no, senza se, senza ma, senza condizioni, punto e basta. D'accordo? Ciò premesso però, supponiamo che a qualcuno venga in mente di fare un disegno di legge che riduca i margini di applicazione della legge 194. Vi faccio il primo esempio che mi viene in mente. Supponiamo che ci sia una legge che, numero uno, consenta, cosa che non succederà mai, però sto facendo un esempio, al padre del bambino di poter opporre un eventuale diritto di veto. Quindi, siccome il figlio è di tutti e due, alla faccia dell'utero è mio, lo gestisco io, cioè che il padre ci abbia voce in capitolo, anche prendendosi delle responsabilità, potrebbe essere giusto. E supponiamo che l'aborto, diciamo così, questa è un'altra ipotesi per assurdo, cioè diciamo, si renda lecito l'aborto soltanto nel caso di malformazioni. Quindi non posso abortire chiunque. È comunque male, cercate di capire, oppure lasciamo perdere la malformazione. Anziché per i primi 3 mesi viene ristretto l'ambito di applicazione per i primi 2 mesi. Allora, un cattolico che si trovasse in Parlamento deve non votare una cosa di questo genere, o può votarla o deve votarla. Ecco, d'accordo. Allora, Giovanni Paolo II disse che quantomeno, sicuramente non si tratta di che non è peccato se la vota. Assolutamente. Non è che votandola esprime il suo favore all'aborto, perché dentro l'attuale realtà, dove è assolutamente impensabile che si riesca a fare qualcosa di grosso attualmente, anche se ci si deve provare, qualora ci fosse un tentativo che restringesse l'ambito di applicazione, cosa vorrebbe dire di fatto? Vorrebbe dire salvare una montagna di vite, d'accordo? Certo che il principio è sempre sbagliato, ma in questo caso tu potresti appoggiare un fatto del genere, ed è quello che accadde con la famosa legge 40 italiana. Tutti quanti a dire la Chiesa ha appoggiato la legge 40. Allora, cosa è stata questa legge 40? Perché prima della legge 40 c'era quella che i media chiamavano il Far West oppure la giungla, che è tuttora vigente, tant'è vero che moltissime persone vanno a fare la fecondazione artificiale in altri paesi d'Europa e non in Italia, è tuttora vigente in tantissimi altri posti. Allora, come vi ho detto, più embrioni tu impianti dentro un utero, maggiore è il successo che uno di quelli, maggiore è la possibilità che uno di quegli uteri sopravviva. Perché Però capite che strage, che carneficina, eh? Cioè, se tu ad ogni processo di fecondazione artificiale non metti dei limiti e puoi impiantare anche 20, anche 30 embrioni, supponiamo che un caso di fecondazione artificiale andato male produce 30 morti. Se tu questa cosa la limiti, al massimo, dice la legge 40, ne impiantiamo 3 e la fecondazione è consentita soltanto in forma omologa, quindi solo all'interno della coppia. Certamente dentro l'immoralità di questa fattispecie ci sono comunque delle restrizioni, cioè ci sono dei danni gravi che vengono evitati. Se per esempio non si cambiasse mai la legge 40, non sarà mai possibile neanche nella sciaguratissima, ma purtroppo ahimè ritengo non improbabile ipotesi che fossero riconosciute in Italia le coppie di fatto anche omosessuali, non potrebbero fare un figlio proprio se non toccano la legge 40. Voi sapete che tra i rischi della fecondazione eterologa è che se io non so, cioè perdo la cognizione con uno dei genitori biologici, ci possono essere un sacco di conseguenze a livello di malattie trasmesse, di malattie genetiche, quindi cioè il fatto che sia omologa, quindi ristretta alla coppia, pur nella sua illiceità, ci preserva da una serie di danni. Allora, che è successo? Questa legge fu attaccata da chi? Non dalla Chiesa Cattolica, ma fu attaccata dai libertini, dai radicali, se non ricordo male, comunque dai libertari, cioè da quelli che volevano, uno, che fosse introdotta anche la fecondazione eterologa, che era il quarto punto del referendum, e altri punti che fossero comunque tolti i paletti, d'accordo? Quindi i limiti di applicazione, soprattutto il limite massimo di embrioni, di impianti di embrione possibili, che in Italia non può essere superiore a 3. Allora, attenzione. Facciamo un attimo una piccola pausa, che sono le 17, per la recita consueta dell'Ave Maria, che facciamo insieme. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, che successe? Riprendiamo il discorso sulla fecondazione. Quando ci fu il referendum, voi sapete che in Italia, in democrazia, un referendum non può essere tenuto in considerazione se non arriva a un minimo di quorum, cioè a votare al referendum deve andarci il 50% della popolazione più uno. Se a votare un referendum va soltanto il 20% della popolazione, qualunque sia l'esito della votazione, il referendum fallirà. Allora la Chiesa, pubblicamente schierandosi, esortò i cristiani a non andare a votare. Perché? Per non far ragione. Non andare a votare, no. D'accordo? Ma perché? Attenzione, non disse di non andare a votare no perché voleva l'abrogazione della legge 40 nell'attuale contesto storico che sarebbe stato, perché l'abrogazione sarebbe significato darla vinta ai libertari. Quindi c'erano due possibilità: o vado a votare al referendum e voto no, quindi no significa sono contrario all'abrogazione, quindi ci teniamo alla legge 40, oppure fare una cosa più intelligente. Siccome i fautori del sì erano in minoranza, la cosa migliore era non andare a votare, in modo tale che non arrivassero al quorum e quindi non riuscissero a cambiare questa legge e la lasciassero intatta. E così è stato. Ecco, da qui poi venne fuori il discorso che la Chiesa appoggia la legge 40, ma non è vero questo qui, perché l'appoggio alla legge 40 non è vero, perché la legge 40 rappresenta allo stato attuale, come dire, la forma di male minore, per cui in attesa di tempi migliori, cioè, ma voi immaginate oggi una legge che proibisse in maniera assoluta ogni forma di fecondazione in vitro? Nell'attuale contesto bisognerebbe farla. Ma vi rendete conto di quello che succederebbe fuori? Cioè, è realistico pensare a una cosa di questo genere? Ecco, questo è un punto. Guardate che ragazzi, vi parla. Penso che voi, se chi mi segue, abbia capito, non lo so, la mia posizione di fondo nei confronti del magistero della Chiesa, della legge e della morale. Quindi è anche una certa, come dire, intransigenza, almeno su un piano di principi e di fedeltà al Vangelo e alla Chiesa, che caratterizza la mia persona. E che è doverosa, però dovete anche pensare che i romani, che io conosco bene perché ci ho fatto la tesi di laurea in diritto romano, i romani dicevano summum ius, summa iniuria, cioè in alcune circostanze, cosa vuol dire? Sommo diritto, letteralmente, somma ingiustizia, cioè in alcune circostanze andare a ricercare l'ottimo, l'ottimo irrealisticamente possibile allo stato attuale, comporta paradossalmente andare a fare il gioco dei nostri nemici. E questo la Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, l'ha sempre saputo e quindi ha ammonito i suoi figli a stare attenti a questo. Spero di essere stato chiaro. Ecco, quindi il fatto che ci sia stato questa sorta di appoggio indiretto alla legge 40 non è da giustificare, non è da intendere dentro una prospettiva di, come dire, di moralizzazione da parte della Chiesa di una condotta che è contraria alla legge naturale e quindi alla legge di Dio. Ma è stata semplicemente una forma di tutela di alcune nefaste conseguenze che verrebbero se questa pratica fosse liberalizzata a tempo, come dire, indeterminato e in forma indiscriminata. Non so, è la stessa identica situazione che si presenterebbe qualora venisse fatta una legge restrittiva in tema di aborto, che pur senza abrogarlo ne rendesse più ristretta l'applicazione. Quindi capite? Quindi quando non è possibile raggiungere il bene ideale, può essere opportuno e in alcuni casi può essere auspicabile e può essere l'unica strada percorribile, ripiegare sul male minore, sempre avendo la riserva mentale di non approvare e di non benedire il male che è dietro, ma di tollerare il male minore, non potendosi allo stato attuale fare niente altro. E senza con questo rinunciare comunque alla battaglia, che va comunque continuata, perché pur essendo in due gatti non fa niente, possiamo continuare a difendere le legittime esigenze della legge di Dio. Ecco, non so se sono riuscito a essere chiaro su questo punto. Cioè, perché questo tema uscì fuori durante le recenti consultazioni politiche? Ecco, perché abbiamo visto in giro che panorama ci sta adesso. Ecco, quindi, che chi voto io quando vado a votare oggi? Punto interrogativo. Ditemi voi, casomai fatemi un colpo di telefono. Esiste qualche schieramento politico che uno da cattolico possa votare senza alcun dubbio e senza alcun riguardo? Qualcuno diceva che esisteva un movimento, che era quello di un noto esponente, non facciamo nomi, noto esponente che però recentemente, purtroppo, dopo il fallimento delle vicende elettorali, addirittura ha preso le distanze dalla Chiesa Cattolica. Quindi immaginate quelli che l'hanno votato. Ecco. Allora, che cosa si fa in una situazione di questo genere? Punto interrogativo. Cosa si fa? Da cattolici, noi dobbiamo anche ascoltare, no? Cioè, ci sono stati alcuni eminentissimi vescovi che sono intervenuti e io chiaramente gli ho dato risalto ai loro interventi. Gli interventi erano molto semplici: guardate, noi abbiamo i valori nostri, che sono 1, 2, 3, 4 e 5. Noi dobbiamo dare l'appoggio a quelle coalizioni o a quelle formazioni politiche che, uno, magari in qualche modo li tutelino, ma non esiste allo stato attuale nessuno schieramento politico che tuteli i cosiddetti valori non negoziabili in maniera perfetta. Nessuno. Nessuno. Non c'è. Allora tu devi semplicemente ripiegare su chi dinanzi a quei valori non negoziabili, come dire, almeno non peggiori le cose rispetto a quelle che già ci stanno. Per forza. Perché non votare, cosa da cui io personalmente sono contrarissimo e l'ho detto in pubblico, lo ripeto, e mi sono molto meravigliato, molto senza fare nomi, che insigni esponenti da me stimati anche di una certa area cattolica abbiano fatto le campagne sul non voto. Non puoi tu andare sul non voto, tu devi sperare che chi presenta un certo programma sia poi fedele e non vada almeno a peggiorare la situazione. E a quello tu devi dare il tuo appoggio adesso. Non c'è altro da fare. Capite? Quindi bisogna optare per il meno peggio. Non c'è niente da fare. E purtroppo, ragazzi, vi parla, vi ripeto, questi intelligenti, no? Per me dire queste cose è una sofferenza. Perché se dipendesse da me, le cose andrebbero fatte tutte bene. La legge di Dio bisognerebbe osservare in maniera perfetta, senza sconti, senza se, senza ma e senza remore e senza ripensamenti. Ecco. Però purtroppo la realtà dei fatti concreta spesso va in altre direzioni e oggi noi viviamo in uno stato completamente in uno stato, in una società che è fondamentalmente scristianizzata, secolarizzata, senza Dio. Però capito, voi ti fanno una legge di un certo tipo. Adesso in Italia non c'è ancora legge sull'eutanasia, non c'è ancora la legge sulle unioni tra omosessuali. Una volta che cioè tu fai una legge su questa cosa qui, poi non si toglie più, capite? Non è una cosa da, cioè, sai, viene fatta e poi qualcuno la abrogherà. Dove? Una volta fatta la legge sull'aborto, sono passati 35 anni dal 1978, non una settimana. È stata mai toccata quella legge lì? Quindi, cioè, allora, che ce ne sia non ancora, questo va impedito. Perché se Dio non voglia, ne fanno qualcuna, dopo te la tieni fino a quando il Padre Eterno non ci metterà le mani, ma umanamente parlando, non c'è alcuna speranza. Cioè, io vi dico realisticamente, io andrò a fare la marcia per la vita, in prima linea, d'accordo? E vi invito tutti quanti, ma lo so benissimo che allo stato attuale è assolutamente impensabile che ci sia una possibilità di cambiamento. Purtroppo. Quindi la cosa più sensata da fare in questa situazione è guardare con attenzione, leggere i programmi e dare l'appoggio, non andare a votare, a chi dichiara nel programma di non avere in programma altri provvedimenti che peggiorino ulteriormente la situazione già grave e immorale che c'è nel nostro ordinamento. Perché che è più importante della situazione economica, degli spread, di tutto quello che volete, cioè che sono problemi grossi, ma sono problemi meno grossi di quelli posti in essere dai valori non negoziabili. Quindi spero di essermi spiegato. Ovviamente, se è illecita la fecondazione eterologa, qui c'è un altro piccolo capitolo che andrebbe aperto, che è quello addirittura di un'altra follia allo stato puro, che però almeno attualmente non è in programma, chi lo sa per quanto tempo, che è quello della clonazione umana. Ecco, la clonazione umana è ancora peggio perché la clonazione. Adesso non è il caso, non è opportuno in questa sede fare come dire, una lezione di biologia o di bioetica in senso stretto. Comunque la clonazione comporta un concepimento di vita sempre in forma artificiale, ma con patrimonio genetico unico. D'accordo? C'è una tecnica particolare per cui è possibile che si faccia una. L'hanno già fatto con qualche animale, no? Tutti quanti ricorderanno la pecora Dolly, cioè che viene preso il patrimonio genetico soltanto di uno dei due soggetti coinvolti nel fenomeno riproduttivo e viene fatto fuori. Ecco, viene fatto fuori, scusate, viene, come dire, posto in essere il processo con il patrimonio genetico di una persona sola. Quindi chi esce fuori ha lo stesso patrimonio genetico di uno dei due. Pare che non sia in programma. Qualche maligno dice che in segreto da qualche parte la clonazione umana sia stata fatta. Cosa sia vero e cosa non sia vero non lo possiamo sapere. Speriamo di no. Comunque, allo stato attuale, che io sappia, non ci sono legislazioni in Occidente che consentano la clonazione umana. Ecco. Però c'è qualche scienziato, insomma, un po' così, che ogni tanto la sbandiera. Ora, attenzione, un altro capitolo, l'ultimo diciamo di oggi, sperando di farcela, credo di sì, è quello delle manipolazioni genetiche. Allora, cosa sono le manipolazioni genetiche? Abbiamo già visto in introduzione. Sono tutte quante quelle operazioni, esperimenti o studi praticati su embrioni umani creati ad hoc per questo fine. Allora, penso che voi sappiate, ragazzi e ragazze, anche meno giovani, che per esempio è lecito e viene fatto, come dire, fare questa operazione con cavie animali. Esempio, come faccio io a sperimentare l'efficacia di un farmaco prima di provarlo sull'uomo? Ecco. Penso che sappiate tutti quanti che vengono utilizzati, ma ora queste cose si possono fare sugli animali all'unica condizione che deve essere rispettata, che questo non comporti un trattamento, come dire, disumano e quindi un'inflizione di sofferenze grandi e gratuite a quel poro animale, d'accordo? Cosa che ordinariamente non avviene. Capite che c'è un abisso? E qui attenzione, perché qui molti di quelli che sono a favore di queste cose poi vanno a fare gli animalisti. Ecco. Cioè, gli animalisti, cioè, vanno a fare le battaglie e le crociate per tutelare gli animali. Per carità, nessuno vuole dire che gli animali debbano essere maltrattati o bistrattati. Ecco, però prima di tutelare un animale, cioè io sarei il primo a fare tutte le battaglie degli animalisti, ad una condizione: abroghiamo la legge 194 e abroghiamo tutte le velleità, d'accordo, di fare manipolazioni genetiche, cioè sistemiamo il campo della bioetica naturale cattolica. Dopodiché io sarò il primo a fare le lotte per le foche, per gli animali, per i cani randagi, per tutto quello che volete, che non è che non sono valori in qualche modo portatori di qualcosa di bene. Ma voi capite che un povero cagnolino sia abbandonato è cosa brutta e triste per quel povero cagnolino, che comunque, pur non avendo l'anima razionale, ha, come dire, una sua propria forma di essere, per cui soffre, sta male, d'accordo? Almeno nell'unica vita terrena che ha. Ma che io faccio secco un embrione umano dove c'è un'anima razionale, che immagine e somiglianza di Dio, c'ha una, come dire, stiamo su un piano completamente differente, cioè una sola vita umana maltrattata, se tu metti miliardi di animali maltrattati, il danno morale che viene fatto maltrattando miliardi di animali tutti insieme non è paragonabile a quello che viene fatto maltrattando una sola persona che abbia la dignità di essere umano. Questo è il senso. Allora, voi sapete che scoppiò qualche anno fa, meno male che poi c'è stato qualche insigne medico e di fama internazionale che ha posto un alto là, la questione speciosa delle cosiddette cellule staminali. Dice: no, noi dobbiamo fare gli embrioni, perché dobbiamo estrarre da queste le cellule staminali, perché le cellule staminali servono per la cura di alcune malattie incurabili, per esempio i tumori. Ora, abbiamo un quarto d'ora. Cosa sono queste cellule staminali? Tanto per dirvi qualcosa, no? Allora, le cellule staminali sono delle cellule ad uno stato, come dire, di vita primitivo. Cioè, le cellule che noi abbiamo nel nostro organismo sono miliardi, sono. E per farvi capire, ogni cellula ha una sua specializzazione, d'accordo? Per esempio, sono i globuli bianchi che dentro il sangue fanno una cosa, sono i globuli rossi che fanno un'altra cosa, ci sono le cellule dell'apparato riproduttivo che fanno un'altra cosa, e cioè le cellule del cuore fanno un'altra cosa. Quindi il nostro organismo non è altro che una composizione di miliardi di cellule, e queste miliardi di cellule, diciamo, che sono frazionate in vari gruppi specializzati, ognuno preposto al compito proprio. Sto semplificando in maniera quasi banale e ridicola. Ora, prima di questa specializzazione, cioè prima che una cellula, come dire, prenda la direzione voluta, la cellula si trova in uno stato primitivo che appunto si chiama totipotenziale, il nome stesso lo dice, cioè che sta in una situazione in cui potenzialmente può prendere qualunque tipo di specializzazione. Vi faccio un esempio stupido. Una volta si diceva che soltanto chi esce dal liceo classico poteva frequentare, questo fino alla riforma del 68, solo chi usciva dal liceo classico poteva andare a tutte le università possibili. Chiaramente prendendo poi una direzione, se fai medicina diventi medico, se fai giurisprudenza diventi avvocato, se fai ingegneria diventi ingegnere, eccetera. Allora, le cellule toti potenziali sono tutte quelle là che hanno il diploma di maturità classica, d'accordo? Per farvi capire, cioè possono prendere qualunque tipo di specializzazione, senza nessun problema, da una parte oppure dall'altra, d'accordo? Dentro un embrione, tutte le cellule sono così. Quindi, se le prendiamo da lì, se noi, per esempio, in alcuni tumori, in alcune leucemie, ve le semplifico ancora in maniera che se mi sento un medico si mette le mani nei capelli, se prendi queste cellule e le usi, per esempio nei casi in cui è necessario il trapianto del midollo, nelle malattie del sangue, eccetera, eccetera, queste, specializzandosi in un certo modo, avranno delle marce in più che le cellule normali non hanno e favoriranno la vittoria contro queste grandi malattie. Quindi, dal momento che gli embrioni ne sono pieni, prendiamoli. Quindi, vedete che c'è sempre uno specioso pretesto, perché altrimenti il male non sarebbe mai fatto, no? D'accordo? Ora, illustri e scienziati e medici cattolici. Per esempio, un nome su tutti, mi raccomando, ogni tanto si vede anche, molte volte ha scritto anche sui contributi settimanali di medicina che si trovano sul giornale dei Vescovi, su Avvenire, che è il professor Angelo Vescovi. Io l'ho sentito una volta parlare in diretta, fare una splendida relazione, dopo aver confermato l'importanza di tali cellule, soprattutto per la scienza medica, ha dimostrato però che non è affatto necessario andare a cercare tra gli embrioni, perché anche noi adulti abbiamo alcune cellule staminali. Anzi, se io le estraggo da organismi adulti, sia dello stesso paziente malato che di altri, producono e hanno un'efficacia assai maggiore di quelle estratte da embrioni di pochi giorni di vita, quindi il contrario di quello che si penserebbe. Quindi lo specioso pretesto è stato completamente neutralizzato dalle scoperte scientifiche che sono state opposte. Quindi non è vero che le cellule di questi embrioni sarebbero più efficaci di quelle di un adulto, affatto. Ma ammesso e non concesso che l'intelligenza di questo dottore non avesse dimostrato questo, in ogni caso sarebbe inaccettabile un ricorso a una pratica di questo genere, perché usare un embrione umano come mezzo per fini anche santissimi o utilissimi, è totalmente inaccettabile dal punto di vista morale, perché tu stai strumentalizzando qualcosa. Ora pensate, avete visto la volta scorsa quando vi ho, come dire, dimostrato l'irrazionalità e l'autocontraddizione dell'ordinamento giuridico italiano, che ha fatto la legge per l'aborto e però al tempo stesso nel codice civile, come dire, parla dei diritti successori del nascituro. Al nascituro c'è i diritti successori e non c'è il diritto alla vita. Allora, qui la stessa cosa. Allora, qui noi siamo tutti quanti, adesso va di moda, no? Attenzione anche ad andarci dietro noi cattolici, eh? Da dopo la Rivoluzione francese non si parla altro che di liberté, égalité, fraternité. E molti pensano che libertà, uguaglianza e fratellanza siano valori cristiani che devono essere perseguiti, quando invece questi non sono altro che valori illuministi e massoni, cioè che sono stati elaborati in contrapposizione alla morale cattolica dai vari ambienti illuminati francesi e tedeschi del 1700, anzi già nel 1600 c'era qualcosa. Ora, il più grande illuminista tedesco che c'è stato nel corso della storia, penso che sappiate, se non ve lo dico io, è Immanuel Kant. Immanuel Kant, come dire, che scrisse, diciamo, tre opere principali, tre opere principali, la critica della ragion pura, la critica della ragion pratica e la critica del giudizio. Nella critica della ragion pratica elaborò una vera e propria morale laica, cioè senza Dio e alternativa al cristianesimo. Pensate, in questa morale laica, questo per far capire come alcuni principi sono talmente radicati nella natura che possono essere riconosciuti anche da una persona che si dichiara nemica di Dio e della fede. Allora, uno dei principi della morale di Kant è questo qui: agisci in modo da considerare l'altra persona, una persona umana, sempre come fine e mai come mezzo. Lo dice lui, lo dice, eh? Lo dice lui. Quindi, Voi sapete che per i laici hanno una morale spicciola, per cui Machiavelli, per i laici, o meglio per i laicisti, funziona. Il fine giustifica i mezzi? Sì, noi cattolici no, perché per noi cattolici il fine non giustifica affatto i mezzi, perché i fini buoni vanno raggiunti con mezzi buoni. Però lui dice, fino a un certo punto, la persona umana mai come mezzo, sempre come fine. Bravo! Ma noi che siamo tutti illuministi, ma noi che siamo tutti laicisti, ma noi che siamo tutti scientisti, se autorizzassimo la manipolazione genetica, ovvero gli studi sugli embrioni, contraddiremmo questo punto della morale laica di Kant. È incredibile. Quindi, se c'era arrivato un campione di ateismo illuminato a queste cose, come il celebre filosofo tedesco, non si riesce a capire da quale fonte malefica, sicuramente, sia stata ottenebrata la mente di tanti suoi moderni seguaci, per quelli che gli vanno dietro oggi, sono tutti quanti impostati come. E come lui. Quindi è pazzesco, no? Allora, vi ho già accennato, andiamo verso la conclusione, che diverso discorso chiaramente va fatto con gli embrioni di specie animali, che possono essere utilizzati per vari scopi santi. Verificare l'efficacia di vaccini o medicinali, sempre a condizione che non si causino loro sofferenze, uno, abnormi, due, gratuite, oppure in ogni caso sproporzionate ai fini, d'accordo? Faccio un esempio stupido, che mi viene in mente. Non posso sperimentare un farmaco, un analgesico per il mal di testa, qualora questo analgesico se lo faccio mangiare a un topotino piccolino, gli causi i contorcimenti vari, lo strazio, in modo tale da fargli fare una morte orrenda, per dirvi, no? Ecco, quindi questo è un esempio sciocco, però che è irrealistico, ma che rende un pochino l'idea. Quindi un animale è indubbiamente una creatura di Dio e come tale va accolta e rispettata. Però nel libro della Genesi noi abbiamo, cioè, il fatto che l'animale è sottomesso all'uomo, cioè mangiare la carne degli animali è lecito, ragazzi. Per mangiare la carne di un animale lo devi uccidere. E non è immorale uccidere un animale. Almeno nell'attuale, noi dobbiamo sempre pensare, non dobbiamo pensare alla terra come luogo ideale e non dobbiamo neanche pensare alla terra dell'Eden. L'Eden è finito con il peccato originale dell'uomo, purtroppo, ragazzi. Dopo il peccato, come dire, lo statuto, come dire, per certi aspetti, tra virgolette, ontologico della realtà creata è cambiato. San Paolo scrive nelle sue lettere che la creazione stessa attende con impazienza di essere riscattata. Quindi c'è stato una reale, come dire, decadenza dell'umanità. E quindi tutta quanto una serie di disposizioni, chiamate come di leggi o di prassi, che sarebbero state ipotizzabili in una situazione di natura integra e perfetta, cioè nell'Eden, ora sono cadute. Gli animali sono sottomessi, ma se uno segue il racconto della Genesi, prima della caduta non esistevano le belve feroci, cioè gli animali erano sottomessi all'uomo realmente, non semplicemente perché li posso uccidere per mangiarmi la carne. Cioè, se prima che ci fosse la caduta, questo è un dato di fede, l'animale era sottomesso all'uomo. Quindi se tu andavi vicino a un leone, non ti avrebbe sbranato vivo. Cioè, se uno legge i passi del profeta Isaia che parlano della restaurazione scatologica, il lupo dimorerà con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il leoncello e il vitello scrolleranno insieme, il bambino metterà la mano nella tana dell'aspide, immaginate, senza pericolo che l'aspide lo morda e gli inoculi il veleno e lo uccide istantaneamente. Quindi, nell'attuale economia, l'animale è sottomesso a noi in questo senso, nel senso che nel rispetto della sua limitata dignità, limitata, ripeto, che va comunque, quindi un animale malato va curato, se uno ha un animale dentro casa lo deve tenere in condizioni degne, non deve dare sofferenze inutili, eccetera, eccetera, però è una creatura di Dio inferiore, d'accordo? Quindi è sottomessa all'uomo ed è utilizzabile dall'uomo per fini buoni, all'unica condizione che gli si risparmiano eccessive inutili sofferenze. Quindi, ecco, sotto tutti i punti di vista. Ora, per concludere, ecco, voi capite che Uno dei paradossi assurdi, l'ho già accennato, e mostruosi di questi nostri tempi malati, è il cosiddetto animalismo, che trova i suoi fautori ancora più accaniti proprio da coloro che sono favorevoli al libero aborto, alla libera eutanasia, alla libera fecondazione artificiale, alla libera manipolazioni genetiche. E poi gridano allo scandalo e si stracciano le vesti, vi ripeto, se vedono un cane abbandonato d'estate, oppure se si incagna un delfino in una scogliera, o se si apre la stagione della caccia, vedresti dei giornali, manifestazioni, cose a destra e a sinistra. Allora, che facciamo? Prolifica un'associazione di ogni tipo a tutela degli animali e paradossalmente, perdonatemi l'espressione un po' cruda, si tratta come carne da macello la vita umana. Cioè, voi capite che non si tratta di negare una certa, come dire, dignità degli animali, né di autorizzare torture o massacri di animali a proprio piacimento, ma capite che è un disordine questo qui, cioè non posso io accettare l'inversione dei valori per cui si scatena un putiferio per impedire che il panda si estingua, per esempio, e si accetta la continua e interrotta carneficina di esseri umani, perpetuata a nostre spese, a un sacco di soldi a bordo, nelle sale dei più moderni e sofisticati ospedali del mondo. Questo è un disordine, non si può accettare. Quindi il Signore certamente ha creato tutte le creature perché siano sottomesse all'uomo e l'uomo come Signore del creato, l'unico che è creato a sua immagine e somiglianza. Quindi in questo senso è la vita umana che ha dignità unica e assolutamente inviolabile. Assolutamente inviolabile. Assolutamente, poi vedremo le rarissime eccezioni, d'accordo? Ma la vita umana innocente, perché questo vi ricordate quando abbiamo parlato nel prologo del quinto comandamento, la differenza tra non uccidere e non ammazzare, la vita umana innocente è assolutamente inviolabile. Bisogna fare sempre un passo indietro, inviolabile e deve essere rispettata e non può mai essere strumentalizzata. Senza bisogno che ce lo dica Kant, perché lo sappiamo già ampiamente dalla legge naturale e dalla rivelazione. Le altre forme inferiori di vita rispetto all'uomo, ripeto che meritano rispetto e considerazione, ma possono essere sacrificate, chiaramente per giuste e nobili cause, all'interesse dell'uomo. E questo in maniera perfettamente conforme alla volontà di Dio, senza bisogno di andarsi a confessare. Vi invito ragazzi a non dimenticare queste cose anche quando vi trovate in ambienti, in contesti, ovviamente con gli opportuni distinguo come io ho cercato di evidenziare nel corso di questa conversazione, però queste cose vanno proclamate con chiarezza e con fermezza e ad alta voce, perché noi non possiamo accettare assolutamente di essere messi alle corde da questo nostro balordo pensiero dominante che sembra veramente essere la riattualizzazione di una sentenza di nostro Signore rivolta ai farisei, filtrano il moscerino e ingoiano il cammello. Quindi si stracciano le vesti se la foca muore di caldo e ingoiano il cammello di una strage di vite umane che non mi ricordo le numeri, in Italia credo che siano stati fatti dal 1978 oggi, non vorrei sbagliare nel numero, 5 milioni di aborti, 5 milioni. Nessuno si è mai stracciato le vesti dinanzi a questo, d'accordo? Quindi, se dinanzi a una strage di questo genere una foca muore, ecco, certamente ci dispiace che la foca è morta, ma ci addolora enormemente, per quello sì che ci stracciamo le vesti, che ci sia stata un'ecatombe di 5 milioni di esseri umani. Io vi saluto ragazzi e se volete ci risentiamo e ci rivediamo la settimana prossima su Radio Buon Consiglio per una nuova puntata su questo argomento. Santa settimana e santo fine settimana a tutti. Ave Maria.